Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Esiste un luogo comune, a me facilmente smentibile, sul quale però abbiamo spesso riflettuto a Melog, che il social networking, cioè l'attività di relazione attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla rete dei social media, sia un'attività soprattutto favorita dalla frequentazione di adolescenti. È vero e non è vero, è molto misto e molto composito il pubblico dei social network, ma quando gli adolescenti, quando i minori si applicano a questa attività, spesso suscitano il maggior livello di attenzione, di pregiudizio, ma anche di apprensione. Perché? Perché naturalmente sono i soggetti più deboli, più fragili, più esposti a quelli che sono i rischi di una multipla possibilità di conoscere, frequentare, relazionarsi con una fetta di umanità di cui loro stessi non hanno l'esatta consapevolezza, perlomeno attraverso gli strumenti banali, convenzionali e naturali di individuazione del pericolo che può venirci una persona o dell'atteggiamento di una persona. Siamo sempre stati dell'idea che in realtà non manca un'educazione a conoscere gli strumenti tecnici di accesso, di frequentazione della rete, ma serve piuttosto un'educazione a capire e concepire come si muta, come cambia l'aspetto relazionale nei rapporti in rete. Questo andrebbe inserito nelle discipline scolastiche sin dalla scuola elementare. Propongo una delle puntate di Melog in cui ci siamo soffermati sul rapporto difficile e molto poco studiato, perlomeno in forma ufficiale, degli adolescenti con i social network. Facebook, la macchina di Zuckerberg, sta per diventare ancora più infernale. Qual è la parola più importante del presente e del futuro? Twitter. I fighi sono tutti su Twitter. Tutti su Twitter. Perché sembrava da sfigati essere su Twitter. I followers sono le persone che ti seguono. Questi follower sono quelli che seguono me e sono 209.575 persone. E Beppe Severgnini. Twitter è un microdiario. Come Ornella Vanoni. Allora mi hanno convinta, mi hanno detto non puoi non avere Twitter. Ci comunica da anni. E uno che fa qua? Esprime un suo pensiero, commenta il pensiero di altri, mette il link a una notizia, una fotografia. Stamattina, ad esempio, abbiamo preso questo esempio a caso, ha commentato una dichiarazione. Fede, un maestro di cosa? È fantastico osservare come uno degli argomenti più discussi sia Twitter, il social network più usato dai più strafighetti dei miei colleghi, ma anche dalla maggior parte degli italiani, come hanno deciso che esiste una possibilità fantastica di esistere, quindi poter esprimere il proprio parere, accodarsi a pareri illustri di persone che hanno già una loro fantastica gratificazione nell'appartenere al mondo dei media e quindi vanno su Twitter. Questo sarebbe nulla, figuriamoci se amo demonizzare uno dei miei percorsi passatempi, come quello di stare sui social network, non è questo. Ma che spesso, in alcuni casi perlomeno, l'idea che applicarsi sul social network non siano soltanto gli adulti con tutte le loro possibili e giustificabili obiezioni, non siano i politici che si rincorrono, che dichiarano che non hanno capito come bypassare gli uffici stampa, non siano i noti personaggi che anticipano le loro vicende sentimentali, i loro tracolli coniugali e via dicendo, ma siano anche i giovani, i minorenni, le categorie più indifese, più enigmatiche, più difficilmente decifrabili da sempre, da quando esiste l'umanità, che in alcuni sfortunatissimi e disastrosi casi, che non vorrei citare nello specifico questa mattina, perché quando si tratta del suicidio di un minorenne, secondo me ci vuole una grande attenzione, una grande delicatezza nel trattarlo anche da un punto di vista giornalistico, subentra il fatto che in realtà alcune circostanze angosciose, problematiche, difficili legate all'adolescenza o all'età minore siano accentuate, trovi in un terreno di amplificazione molto attivo e molto pericoloso in Twitter, in Facebook, nei social network. che altro non è che la versione ultima di tutti i luoghi della dissoluzione, i luoghi del pericolo, dei luoghi sconosciuti e insondabili da parte delle generazioni adulte. In tempi passati potevano essere i romanzi d'avventura, in tempi più recenti potevano essere i fumetti, poi potevano essere i terribili cartoni animati giapponesi, poi poteva essere la televisione in tutte le sue accezioni possibili e immaginabili, poi potevano essere i videogiochi, poi finalmente arriva internet. Internet è il grande spauracchio, poi l'internet partecipativo, il web 2.0 basato sul fatto che le persone vivano per mantenere reti sempre più strette di rapporti tra conosciuti, sconosciuti, allettati, in cui la seduzione è il collante più efficace. Questo tipo di rapporti, beh, i genitori tracollano, non sanno più cosa pensare. Beh, questa mattina di questo voglio parlare. 800 24 00 24. Abbiamo un fatto concreto e reale, che è una presa di posizione ufficiale, pubblica, dal Movimento Italiano dei Genitori, il MOIGE, che non rappresenta tutti i genitori d'Italia, ma rappresenta dei genitori che comunque si esprimono, hanno una loro organizzazione, hanno una presenza nel mondo dei media, che hanno chiesto una chiarificazione su quello che sia esattamente il rapporto causa-effetto fra il social network e il suicidio della 14enne Novara, lo dico, poi non toccherò più questo fatto, e altri episodi in cui la rete potrebbe rappresentare un pericolo per i giovani, e chiedono alcune cose molto precise, e su questo dovremo innanzitutto aprire la trasmissione. Antonio Affinita, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Antonio Affinita è il direttore del MOIGE, Movimento Italiano Genitori, che è un'associazione di promozione sociale che è impegnata molto nel aprire delle finestre nei mezzi di comunicazione di massa su quelle che possono essere alcune problematiche comuni a tutti i genitori. Noi in prima linea ci stiamo muovendo su questo tema, dove sappiamo che è molto importante, voglio dire, creare effettivamente, come dire, attenzione su quelle che sono non solo le opportunità, di cui se ne parla già ampiamente, di questi che sono appunto degli strumenti per i nostri figli, per gli adulti, insomma, sono appunto i social network, ma anche di quelli che sono i rischi e i pericoli, tanto che non a caso oggi siamo qui a Roma in Regione Lazio, e non è una casualità, per dire, una delle nostre iniziative per parlare appunto, insomma, ai ragazzi. Sono oltre 200 ragazzi a cui verrà consegnato proprio il titolo di ambasciatori per un web sicuro nelle loro scuole, quindi con un progetto anche innovativo peer-to-peer. Quindi avete fatto io allora, torno a quella che è la sua dichiarazione. Temiamo che i social network non garantiscano la sicurezza dei nostri figli, questo dichiaro. Assolutamente, perché esiste un principio di base, cioè praticamente abbiamo realtà di social network, quindi aziende che operano nel mondo dei social network, a partire da Facebook e a finire ad altre realtà, che praticamente loro contrattualizzano un qualcosa che è l'iscrizione, l'account che viene dato, e quindi, come dire, l'inserimento all'interno del network, contrattualizzando senza praticamente alcun permesso, alcun beneplacito, alcun potere da parte dei genitori di poter intervenire. Creano praticamente un sistema parallelo e soprattutto invisibile ai genitori, che, voglio dire, lo riteniamo contrario a quello che è il principio fondamentale. Allora fermiamoci qua, perché vuoi tenermi proprio agli aspetti pratici e concreti, perché sennò facciamo soltanto filosofia sui social network, ne sono pieni i libri, le facoltà di scienza della comunicazione. Voi avete detto: chi gestisce il social network, il capo, il padrone del social network, in realtà dà ai nostri figli uno strumento di espansione, di socializzazione, di mettersi in contatto con una parte dell'umanità molto più vasta di quella che fisicamente potremmo noi controllare con i nostri occhi di genitori, senza che noi abbiamo possibilità di esprimere il nostro potere di controllo dei genitori. Si fermi un attimo qua. Andrea Rossetti, buongiorno. Andrea Rossetti? Sì, ci sono, pronto. Ecco. Allora, Andrea Rossetti, docente di filosofia del diritto e informatica giuridica all'Università Bicocca di Milano. I genitori del MOIGE chiedono di avere un maggior controllo, perlomeno chiedono ai social network di poter controllare sull'attività online dei propri figli. Al momento, quale strumento hanno reale e concreto i genitori di effettuare questo controllo? Ma allora, qui bisogna un po' intendersi su quale potere abbiano i genitori. A me sembra veramente bizzarra la richiesta dei genitori di intervenire da parte di Facebook. Faccio un esempio: se io compro al mio figliuolo una motoretta e questo fa un uso della motoretta che io non voglio che lui faccia, semplicemente gli sequestro la motoretta. Se io non voglio che i miei figliuoli vadano sui social network, io non li faccio andare sui social network. Non vedo perché io debba delegare a una struttura, neanche statale peraltro, il potere che io ho come genitore di decidere quello che il mio figliuolo può fare o non può fare. Cioè, io mi domando, un genitore che non è in grado di impedire al figliuolo di iscriversi a Facebook se lui non vuole, che rapporto educativo ha con il suo figliuolo? Questa secondo me è la domanda di fondo che bisogna porsi. Quindi tu dici, in partenza ancora è il genitore che deve decidere, certo, se il figlio ci vada o no. Ma certo, ma questo mi sembra francamente evidente, no? Questo mi sembra evidente. Se il figlio è minorenne, allora minorenne vuol dire, no, che un ragazzo non è ancora in grado dal punto di vista cognitivo e morale di prendere indipendentemente delle decisioni da parte del genitore. Quindi il genitore lo assiste, lo consiglia, ma nel caso in cui il figliuolo faccia, secondo il genitore, delle cose che non devono essere fatte, io credo che la funzione principale educativa della famiglia e dei genitori sia quella di impedire a questo ragazzo di fare quello che vuole fare. Gli strumenti ci sono sono strumenti di uso individuale, non di uso, per così dire, giuridico o tecnico per quello che riguarda la rete. Banalmente, ad esempio, posso controllare la connessione, faccio in modo che nella mia casa non ci si possa connettere a internet se non quando io sono presente. La stessa cosa si può fare sugli smartphone. Cioè, ci sono un sacco di strategie che possono essere messe in atto da parte delle famiglie, da parte dei genitori, per impedire o quantomeno per cercare di controllare l'attività che i nostri ragazzi, che i nostri figli fanno in rete. Allora, vi sembra, Andrea, ci sono due punti di vista. Uno, quello dell'associazione genitori, che dice è il social network che deve tirare giù le saracinesche e chiederci a noi se, come, dove, quando i nostri figli possono entrare, perché poi una volta in rete i pericoli, quali sono i pericoli? I pericoli sono di relazionarsi con persone sconosciute, certo, di fare azioni di cyberbullismo, cioè di vessazione violenta e concreta nei confronti dei loro coetanei più deboli, più sprovveduti o meno attrezzati di spavalderia, di incontrare persone che potrebbero essere pericolose, ma soprattutto di esercitare una sorta di esasperata libertà di espressione, di pensiero, di istinti che i genitori non possono controllare. Quello che invece dice Andrea Rossetti, cioè i genitori hanno degli strumenti tecnici, innanzitutto vietargli di andare sui social network, quindi la rete a casa è contingentata, c'è una password, tu navighi solo quando ti controlla tuo padre o tua madre. Sappiamo benissimo, Andrea, che è inutile essere ingenui, che una percentuale altissima ormai di minorenni e adolescenti hanno uno smartphone a loro disposizione con cui escono da casa e fanno quello che vogliono. In questo, certo, caso il controllo tecnico lo trovo leggermente difficile. No, sugli ultimi sistemi operativi, ad esempio sull'ultima versione di Android, io ho la possibilità di creare account con il controllo familiare. Non so se si possa fare sugli iPhone e su altri smartphone, però su Android si può fare. Quindi in realtà io posso controllare anche la possibilità di connettersi del mio figliolo a distanza. Di più, peraltro, perché dal momento che il telefonino è mio, io posso operare sulla SIM una serie di controlli che possono essere potenzialmente davvero invasivi e che si possono tranquillamente fare. Ad esempio, io posso controllare la posizione del mio smartphone, posso controllare la applicazioni che sono sul mio smartphone collegandomi al mio account di Google se ho Android o al mio account di... Allora, diciamo di chiaramente, Android, Andrea, tutto quello che sarebbe un reato se fatto nei confronti del coniuge, del collega, del dipendente, perché è un controllo sulla privatezza della persona, è lecito fatto da un genitore nei confronti di un figlio minorenne. Quindi... Allora, la SIM è intestata a me, cioè il figlio minorenne non può avere intestato una SIM, quindi la SIM del telefonino è intestata a me, il telefonino è mio, non è del mio figliuolo, io lo presto al mio figliuolo, lo metto in uso al mio figliuolo, ma è mio. È chiaro che dal punto di vista, se vogliamo proprio insomma guardare l'idea di privacy in generale, io mi intrometto nella privacy, cioè nei fatti privati del mio figliuolo, però io credo che un genitore entro certi limiti abbia anche questo diritto. Questa idea di privacy non ha niente a che fare ovviamente con l'idea di privacy, quella stabilita dalla legge, no, che riguarda i dati personali. Questa idea di privacy è un'idea di privacy che ha a che fare appunto con gli atti che una persona ritiene privati, cioè che ritiene di non dover mettere in pubblico. Stanno scrivendo alcuni ascoltatori, questo signore, saresti tu il signore, sì, dice: non sa cosa vuol dire avere un figlio 17enne. Io lo so, perché ce l'ho un figlio 17enne. Un figlio 17enne, se uno vuole, può tranquillamente imporre, anche a rischio di dovergli tagliare i viveri, nel senso non gli dai più un soldo, quindi tuo figlio, se anche vuol farsi la ricarica al telefonino, non se la fa, s'arrangia, ma Esiste una maniera di seguire il figlio dall'età più precoce, più giovane, per dargli gli strumenti di responsabilità. Bisogna perderci tempo, c'è tempo da perdere naturalmente. Certo. Marco, buongiorno. Guarda, ciao Nicoletti, volevo proprio continuare il tuo discorso, perché secondo me non è che si tratta di Facebook o altro, è questione di genitori che devono riprendere il ruolo appunto di genitore, fin da piccolo dirgli quello che è giusto e quello che è sbagliato. E se da piccolo li prendi e gli dici già le cose giuste, arriva a 17-18 anni che sa già quello che è giusto e quello che è sbagliato. Si danno gli strumenti per gestire il social network ai figli e non ci si straccia le vesti quando ormai le porte della stalla e le mucche sono già scappate, è inutile chiudere le porte della stalla. Io ho 38 anni, quando sono nato quando c'era la televisione con due canali in bianco e nero e si facevano le cose da bambini di una volta, e sono arrivato adesso che ho 38 anni, c'è Facebook e Twitter. Però il concetto è sempre quello, la compagnia sbagliata la puoi trovare anche in Nuova Guinea dove non c'è internet, la puoi trovare anche nel 2050 quando ci sarà qualcos'altro diverso da Facebook. Mi sembra chiaro, Marco. Massimo. Sì, salve, buongiorno. Io volevo semplicemente partecipare a questa discussione perché ho nipoti, ho un bimbo di 3 anni che è ancora molto presto a parlare di internet e Facebook, anche se oggi i figli sono molto molto attivi e recettivi. Le cose principali da fare sono le cose basilari, qualcuno ha detto anche prima di me, il controllo del computer, posizione eccetera eccetera, ma quello che volevo dire ai genitori che magari non conoscono bene i social network, ancora con il computer ci bazzicano poco e magari i figli ne sanno più di loro, che magari ci sono nelle impostazioni delle cose da modificare dove magari il figlio non ci accede o non ci può accedere. Allora guardi, facciamo una prova, Massimo, guardi, visto che stanno chiamando ascoltatori maschi con una certa alfabetizzazione degli strumenti di connessione, io vi leggo molto velocemente il decalogo che mi ha mandato Andrea Rossetti su quello che devono fare i genitori. Vi pregherei di chiamare all'800240024, ma chiamino anche le mamme che non ne sanno nulla, per sapere quanti di questi strumenti voi sareste in grado di metterli in atto. Allora Rossetti scrive quello che andrebbe fatto con i figli per togliersi proprio ogni preoccupazione, prima ancora di pensare possa farlo il social network. Controllare la connessione anche sullo smartphone non può essere attivata 24 ore al giorno. Conoscere tutte le password, creare un account senza privilegio per il minore, nel senso che il privilegio di amministratore dell'account l'ha il titolare della schedina SIM, cioè il genitore. Mantenere l'account con i privilegi di amministratore anche sullo smartphone, quindi regalate un telefonino smartphone per navigare in internet al figlio, voi siete l'amministratore di quel telefono, non vostro figlio, quindi voi potete settare tutti i parametri rispetto alla privacy di quel telefonino. Essere un contatto sui social network ai quali il minore è iscritto. Questo io in effetti non seguo questa regola. Mio figlio ha il suo profilo Facebook e non sono voluto essere un suo amico perché gli lascio piena libertà, però ha 17 anni. Controllare quotidianamente gli account sui social network. Lo fate? Controllare periodicamente la cache di navigazione. Sapete cosa significa? Vostro figlio naviga con un computer che penso che sia a casa, se è minorenne vive con voi. Sapete come si controlla la cache? Cioè andare a vedere dove è andato vostro figlio? Tenere il computer con la connessione in una stanza comune. Il computer connesso non deve essere il figlio chiuso a chiave in cameretta collegato con il computer. So che è difficile, però naturalmente se volete la tranquillità questo è. Controllare periodicamente il file di log. Sapete cosa significa guardare il file log? Telefonate anche se non lo sapete, così ve lo spieghiamo magari. Non lasciare mai navigare i minori da soli. Antonio ha finita. Allora, direttore del Moge, ricordo, sì. Riprendiamo il punto sul vostro... Riprendiamolo, guardi, in realtà tutti gli aspetti che sono stati affrontati, legittimi, sul piano educativo, per quanto complessi... Lei è d'accordo su quello che stiamo dicendo? Guardi, io approvo la sua considerazione logica, concreta, e di riportare innanzutto l'attenzione sul tema. A me mi sembra giusto che sul piano pedagogico debba esserci un rapporto di relazione, di fiducia, di discussioni costanti, anche di colloquio, insomma, tra un genitore e il proprio figlio. Sono aspetti di natura pedagogica su cui sono pienamente d'accordo. Ma l'altro aspetto che io sollevo è invece di natura più strutturale, è dire non lasciamo i genitori, le famiglie sole nell'affrontare questa problematica che è molto più acuta e molto più ampia, e a nostro avviso Facebook e tutti gli altri social network devono fare la loro parte, visto che su queste attività che loro svolgono ci fanno anche lucro. Ecco, quando lei dice loro parte, loro parte cosa significa? La loro parte significa significa innanzitutto quello di un monitoraggio vero e attento di tutto quello che succede sulla loro piazza, nel loro recinto. Ma la si rende conto, la si rende conto il numero delle persone che ci sono? Ma io mi rendo conto anche delle potenzialità, voglio dire, economico-finanziarie presenti all'interno di una struttura e della possibilità di poter fare certe cose. Però si tratta di entrare in una logica di responsabilità. Facciamo noi un esempio. Facciamo la nostra parte. Affinità, dico, guardi, facciamo un esempio, un concetto, no? La prima cosa. Mi faccia un esempio, però. Mi faccia un esempio concreto. Glielo dico, ma d'altronde questo succede di un sistema di allerta, e posso essere fatto, di quando succedono episodi di bullismo, persone che si comportano su certe situazioni dove danno incentivi al suicidio e altri comportamenti, venga presidiato. Il problema del presidio con degli algoritmi, con delle persone, ma questo non è un problema che possa. Quindi Affinità, lei chiede un controllo tecnologico su prima eventuali cosa, episodi di bullismo, cioè una persona. Attenzione, la seconda però collegata è anche che il genitore che svolge il ruolo di potestà genitoriale sul proprio figlio deve avere anche il diritto di poter accedere, e non è possibile che una società terza possa fare una forma contrattuale che poi anche a livello normativo non è ammesso. Calcoli che il contratto che un minore fa verso una società è illegittimo, strutturalmente non c'è base giuridica che regge. Ma si fermi un attimo, si fermi un attimo. Avvocato Giuseppe Vaciago, buongiorno. Buongiorno. Vaciago è un avvocato specializzato in diritto penale delle nuove tecnologie. Quello che dice il direttore del MOGE Affinità, da un punto di vista giuridico, ha una sua possibile giustificazione o motivazione, oppure è basato su una sua lecito espressione del pensiero, ma non ha basi giuridiche? Più che mai legittima espressione del suo pensiero, però attualmente la normativa non prevede questo. La normativa prevede che appunto vi sia addirittura non vi sia nessun obbligo di sorveglianza, anzi è quasi l'opposto, lo dice anche la giurisprudenza italiana, comunitaria e addirittura la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ma perché questo? Perché il problema di monitorare le attività, lo dico come cittadino anche, e anche come genitore, perché ho due figli, mi preoccupa, cioè io non so, le pongo una domanda di rimbalzo, ma lei sarebbe così sereno a far controllare tutte le nostre conversazioni da parte di una società, oltretutto che non ha neanche sede in Italia? Cioè, secondo lei è giusto questo, è corretto? Non è forse magari migliore pensare ad un controllo, come invece veniva detto prima, più attento da parte dei genitori? Questa è la prima osservazione che faccio. Per quanto riguarda invece, sono d'accordo, ci sono dei problemi, ma non è che il contratto non sia valido, il problema è nel momento stesso in cui vi sia un problema di età, e su questo si può aprire sicuramente un dibattito più ampio. Ma sul fatto del monitoraggio, con forza dico no, proprio la legge non lo dice. Comunque lo dice, Vaciago, al momento sia Twitter che Facebook hanno una loro form in cui danno possibilità al genitore di un minorenne di mandare un modulo e chiedere la chiusura del profilo del figlio se loro non ritengono il figlio debba avere un profilo Facebook. Ma infatti, perché il problema grosso è il problema di controllo dell'età, cioè nel senso che nel momento stesso in cui purtroppo un minore, anche un minore di 13 anni, si iscrive a un servizio, è chiaro che non c'è una facoltà di controllo. Però a questo punto, con questa stessa stregua, noi dovremmo bloccare forse il sistema internet. Questo mi sembra un sistema abbastanza intelligente di controllare questo tipo di attività da parte dei genitori. Si torna sempre a capire qual è il ruolo dei genitori, bisogna porsi questa domanda: qual è il ruolo dei genitori e cosa devono fare rispetto alle nuove tecnologie? Fermiamoci un secondo, Giuseppe Vaciago, diamo l'informazione della borsa, poi riprendiamo proprio con te. Melog, la realtà condivisa. .800240024, stiamo parlando del difficile, apparentemente difficoltosamente solubile problema del controllo dei genitori dell'attività social network dei figli. Una giornalista nota per essere una polemista che usa molto la rete da molti anni, è spesso al centro di polemiche con personaggi noti dello spettacolo, del mondo della politica, si è presa la briga di fare una cosa che ancora non aveva fatto nessuno. Si è messa a spulciare con pazienza i profili Twitter e Facebook di tanti di questi ragazzini. La sua conclusione, devo dire che la faccio mia questa mattina, che scrive... e Selvaggia Lucarelli nel caso, non sopporto quando la vita mi costringe a parlare con una vecchia zia, e giuro che mi capita di rado, però mi chiedo una cosa banale, ma per niente retorica. I genitori di questi ragazzini arroganti, violenti, bulli nel virtuale, ma ci scommetto caga sotto nella vita, che fanno? I genitori di queste ragazzine che parlano di piselli su bacheche pubbliche e pubblicano le loro foto in atteggiamenti saffici a 14 anni, cosa fanno anziché controllare i social dei figli? Guardano Tempesta d'amore? E conclude il suo pezzo, dice: io ieri questo pezzo, questa mia analisi dei profili Facebook e Twitter dei ragazzini, l'ho pubblicata nel mio blog, e mi hanno scritto naturalmente un sacco di ragazzini insultandomi, in particolare una ragazzina ha detto: te devi fa n'anfiteatro di cazzi tua. E si domanda Selvaggio Lucarelli: ce l'avrà due genitori questa signorina? Selvaggio Lucarelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Hai fatto un lavoro, devo dire, che sì, avremmo dovuto fare tutti, e tu l'hai fatto. Cosa hai visto esattamente? Qual è il senso? Tu non hai figli, vero? Dunque, premetto che io in qualche modo conoscevo questa realtà, perché spesso, tra una cosa e un'altra, mi occupo anche del magari di fare una battuta ironica sul personaggio di Amici di turno, sulla Tatangelo. Tu hai figli, Selvaggio? Scusa, io non so la tua... Io ho un figlio di 8 anni. Ancora è piccolo, ancora non è in età da social network. Sì, però poi alla fin fine, guarda, molte di questi ragazzi di cui stiamo parlando hanno 12 anni, anche 11, per cui non è così lontano il momento in cui dovrò confrontarmi con questi problemi. E quindi, occupandomi anche alle volte di questi personaggi idolatrati dagli adolescenti italiani, mi sono resa conto che ogni qualvolta parlavo di, che ne so, Marco Carta, Emma Marrone, Anna Tatangelo, eccetera, mi vomitavano addosso i vari bimbo minchia che li seguono, insulti di ogni tipo, ma cose fino all'altro giorno inimmaginabili. Diciamo l'atteggiamento basilare, un personaggio, ma anche non soltanto un ragazzino, anche i tipici adulti che trolleggiano sui vari social network, che parlano di politica. Il momento è la grande libertà, è poter mandare a fanculo chiunque, dire, certo, soprattutto certo, a un personaggio noto, c'è questo gusto dell'effrazione del personaggio noto. C'è questo gusto, sì, c'è questo gusto, ma non è solo nei confronti del personaggio noto, c'è anche proprio il gusto di avere l'anonimato, come dire, o comunque di essere filtrati dalla rete, perché poi nella mia vita, andando in giro per strada, non mi è mai capitato di essere insultata, per cui evidentemente poi tutto questo coraggio è solo nel virtuale. Comunque, farsi un giro negli account di Twitter degli adolescenti io lo trovo molto istruttivo. Ecco, me lo racconti un pochino, ci fai capire, perché parliamo, guarda, di cose teoriche di cui nessuno sa. Per dire, sì, no, io invece ho voluto proprio scrivere tutto con anche una certa crudezza, per dirti, io sono andata sugli account di Twitter di alcune amiche di Carolina, anche quelle che piangevano la sua morte, e sono andata a vedere nella cronologia, quindi, di Twitter, anche i messaggi vecchi, quelli di un mese fa, e c'erano foto di ragazzine, per dire, che si baciavano, ok? La ragazzina di 13 anni che bacia l'altra ragazzina di 13 anni, così postate su Twitter, oppure c'erano insulti ad altre amiche, quindi proprio insulti del tenore. Cioè scelgono la strada facile della notorietà, sì, che ha seguito le grandi eroine dei talent show, che si danno il bacio saffico per far vedere che loro, sì, sono fighe, così tutti ne parlano. A 13 anni, esatto. Allora io mi domando, siccome lì ci sono le facce delle ragazzine, quindi non c'è un nickname dietro al quale ti puoi nascondere, mi domando come mai nessuno se ne accorga. Mi sembra un po' improbabile, no, che una mamma non veda il ritratto di sua figlia, o che comunque una maestra, la mamma di un'amichetta, queste cose girano alla velocità della luce. Beh, le mamme, sai, sono impegnate a mettere le loro foto in costume da bagno e dire quanto sono belle. Sì, anche. Poi ci sono i dialoghi tra gli adolescenti che sono scioccanti. Cosa scrivono? Beh, c'è una ragazzina amica appunto di Carolina, amica delle medie, che scrive a un ragazzino: sono eccitata, lui che risponde: ti leccherei tutta con la panna, e lei che dice: smettila perché mi sto eccitando, e questo in una bacheca pubblica, ripeto, età 14 anni in questo caso, mi sono andata a vedere le età esatte perché, ripeto, avendo un figlio di 8 volevo capire da quanti anni mi mancano. Cioè loro scimmiottano quello che vedono fare grandi, diciamo la verità, sì, questo però, c'è un profilo E io odio i maniaci di merda, che è un sito di persone che fanno lo screenshot di tutti gli adulti maniaci che scrivono appunto cose del genere a tutte le signore e signorine leggermente avvenenti che vedono in rete. Me ne capitano tanti, però Gianluca, onestamente le minacce e il tipo di linguaggio che usano gli adolescenti mi capita. Ecco, parliamo un po' della violenza, le minacce, questo mi interessa. La porcata scritta su Twitter corrisponde un po' a quella scritta sul banco, sul gabinetto di scuola. Dovrebbe essere sorvegliata, ma mi scandalizza molto meno della violenza, quella è un'altra cosa. Sì, esatto. Se analizziamo il caso di Flora, questa ragazzina che ha vinto il biglietto per andare a vedere gli One Direction e che appunto quindi è stata bersagliata da insulti da tutte le fan degli One Direction che si sono messe in testa, questa è una follia, che sia stata raccomandata, addirittura c'è chi ha detto che la figlia di quello della Kinder, e tutte queste minchiate varie. Cioè, questo è un gruppo molto noto e appassionato per i ragazzini, questa ha vinto di poterli andare a vedere e tutti la invidiano perché dicono chissà che avrei fatto per vincere. Esatto, però sai, in conto è l'invidia, dire ah, fortunata lei. Allora, il tenore dei messaggi che sono arrivati è il seguente: ti brucio viva, muori nell'acido Troia, vai a fare l'aerosol col gas, ti fracasserei a pugni quella cazzo di faccia che ti ritrovi. E questi sono solo quattro delle migliaia Ecco, tu trovi plausibile, scusa Selvaggio, anche tu hai un figlio, noi tutti ci muoviamo, poi ognuno è responsabile delle sue parole, delle sue azioni, ma siamo adulti, che un certo tipo di aggressività, seppur virtualmente espressa, non possa essere in parte frutto di un clima respirato in famiglia? Ma le famiglie dove sono? Io non so se è il frutto di un clima respirato in famiglia. Io sono una strena sostenitrice della fortuna quando si parla di figli, no? E del caso. Per esempio, io non ho fatto grandi sforzi per tirare su un figlio responsabile, eppure mio figlio a 8 anni è molto molto responsabile, molto più quadrato di me, per cui credo molto nella fortuna e nella genetica. Credo veramente che i giovani sono molto capaci di dissimulare e di fingere. Io stessa in adolescenza riuscivo a nascondere dei grandissimi disagi, quindi credo proprio nell'importanza di vigilare. Allora, nella maggior parte dei casi non siamo in grado di sapere cosa fanno i nostri figli, perché non siamo in grado di sapere cosa gli passa per la testa. Però abbiamo lo strumento per andare a dare un'occhiata. Però almeno sul web, ok, che voglio dire, cioè, accendi un computer e accedi all'account di tuo figlio, sì, può bleffare, può averne uno finto, però insomma non è che sono dei geni poi alla fine. Per cui bisogna farlo. Cioè se tuo figlio scrive ti farei sniffare il gas a una signora che non conosce. Mio figlio non vede mai più un computer. Forse bisogna farci. Allora, fermati un attimo, Selvaggia. Andrea Rossetti, vedi, il discorso di Selvaggio Lucarelli coincide alla fine con il tuo decalogo fatto da professore universitario, da esperto di diritto in rete. Le dice nel suo titolo: servono dei genitori mastini. Tu in sintesi dici la stessa cosa: non vi fate scrupolo, mettete a punto tutti gli strumenti di sorveglianza e di azione preventiva nelle protesi emozionali dei vostri figli per andare in rete. Certo, ma è esattamente quello che si fa anche nella vita tra virgolette reali, no? Se io vedo che il mio figliuolo frequenta delle compagnie che io non gradisco, ovviamente cercherò di dissuaderlo dal farlo, fino a vietarglielo, a punirlo se le fa ancora. Non capisco perché il rapporto educativo in qualche modo dovrebbe essere modificato e anzi essere mediato da delle ditte, dalle società, nel momento in cui io parlo di oggetti che hanno a che fare con i social network, che hanno a che fare con la realtà della rete, anziché con la realtà che si tocca fisica tutti i giorni. Per i nostri figliuoli queste cose, questi oggetti sono letteralmente delle protesi, come dici sempre tu, no? Delle maniere, dei modi nuovi per comunicare. Io posso anche al limite appunto pensare di vietare completamente l'uso di questi strumenti ai minori, però io impedisco loro di sviluppare capacità sociali che sono specifiche quantomeno nella modalità dei social network, e quindi corro il rischio di avere degli adulti non in grado di gestire correttamente il rapporto che hanno, che si intrattengono sui social network. Questo secondo me è il rischio grave. Dovrebbe far riflettere il fatto che poi che i genitori siano mastini, lo dice Selvaggio Lucarelli, non è che lo dice Rosi Bindi o l'onorevole Binetti, lo dico io, lo diciamo te, persone che sono sempre esposte molto di persona, anche nel loro personale privato, nei mezzi, diciamo cosiddetti web 2.0. Antonella, buongiorno. Buongiorno, è un piacere sentirla. Allora, qual è il suo problema? Allora, il mio problema è che mi trovo abbastanza d'accordo col signore che ha appena parlato, però sono un po' stanca di sentir dire che è sempre solo colpa dei genitori. I genitori, è vero, sono i primi educatori e il rapporto con i figli è fondamentale. però spesso, nonostante ci sia anche il controllo, e da parte mia c'è, non sempre si riesce ad avere questo controllo totale su quello che fanno. Io avevo vietato a mia figlia di 13 anni fino a 4 mesi fa di aprire un profilo su Facebook. Lei è riuscita comunque ad aggirare questo mio divieto. Ma perché è stata costretta a farlo? Scusi Antonella, sì. Perché sua figlia è stata costretta a farlo clandestinamente? Perché lei ha vietato a sua figlia ad aprire un profilo Facebook? Sì. Non poteva semplicemente dire apri il profilo, però la mamma diventa tua amica e quindi vede quello che fai. E io non ho il profilo su Facebook. Beh, allora l'ignoranza è sua, Antonella. Sì. È lei che, scusi l'ignoranza, lo dico fra virgolette, sì. È lei che deve acquisire degli strumenti per vivere il tempo in cui sta vivendo sua figlia e fare la madre. Non può fare la madre a metà soltanto nella vita concreta. Esiste una vita in concreta che ha lo stesso peso, lo stesso valore, la stessa forza emotiva, educatrice e anche corruttrice che ha la vita concreta. Quindi come lei ha insegnato a sua figlia di non prendere le caramelle dagli sconosciuti, deve ugualmente avere gli strumenti per insegnare a sua figlia come muoversi su Facebook. Melog, la realtà condivisa. 800240024. Devo dire che è difficile dare giudizi soltanto sui ragazzi quando vedo scrivere da adulti un SMS mandato a una radio, che poi fra l'altro io ho il suo numero di telefono per chiamarla in questo momento e farla parlare. Perché lei mi scrive voglio leccare la F, non entro nella parola, a una dei Power Rangers, Luca? Perché me lo scrive? Che motivo c'ha? Lo manda dal suo telefonino, rimane tracciato il suo telefonino, ho il suo numero di telefono, potete chiamarla adesso. Qual è il senso di usare in maniera così stolta, così stupida un interessante feedback con una trasmissione radiofonica? Antonio Affinita, buongiorno, è ancora in linea? Sì, direttore del Moige. Come vede, noi abbiamo tolto il tappo a quello che era il non detto. Abbiamo, grazie a Selvaggio Lucarelli, fatto capire ai genitori che forse non se ne rendevano conto, l'attività diciamo dei loro ragazzi in molti social network, di molti loro ragazzi, non è che siano tutti così. Guardi, innanzitutto grazie per averne parlato, perché per noi è importante come genitori parlarne. L'altro aspetto che volevo chiarire è questa preoccupazione, e abbiamo apprezzato anche la presa di posizione del garante della privacy, sottolineando, come dire, l'urgenza e le preoccupazioni intorno a questo problema, quindi del cyberbullismo nella rete. Ribadiamo che l'aspetto didattico-pedagogico dei genitori... Ma cosa può fare il garante della privacy? Cosa può fare su questo? Sicuramente può intervenire su tanti fronti. L'aspetto centrale è sul diritto proprio dei genitori di avere il controllo dei loro figli nell'ambito del social network. Ma quello ce l'abbiamo corretto. Già. Però no, ce l'abbiamo in questo noi. Momento, in questo momento, guardi, in questo momento, di fatto, se un genitore che non è iscritto su Facebook e vuole controllare il proprio figlio, questo elemento, concretamente, la possibilità di poter accedere non è fattibile. Guardi, sotto questo profilo se non è scritto è chiaro, allora, che non può controllare una società. Guardi, noi siamo d'accordo sulla dinamica pedagogica, didattica, di tutto quello che bisogna dire. Siamo i primi impegnati nelle scuole e nei mezzi di comunicazione a parlare ai genitori dell'utilizzo corretto della rete e di spiegarlo ai propri figli, ma nello stesso tempo ribadiamo che dobbiamo essere messi anche in condizioni di avere determinati controlli. Sì, però scusi, mi faccia parlare un attimo, scusi. Lei ha detto, prego, se un genitore non è iscritto al social network non può controllare il figlio. E dico, esatto. Il social network è una realtà ormai che esiste nel mondo che noi stiamo vivendo, l'epoca che stiamo vivendo. E il genitore non può ignorarlo, dire io non me ne occupo, qualcun altro se ne deve occupare. No, ma non sto entrando su questo. Quello che è importante è che se è vero che il genitore ha la patria potestà del figlio, bene, allora l'account che il figlio apre, lo apre con il consenso fondamentale del genitore, che ne deve avere il controllo, ma questo è un discorso normativo chiarissimo, cioè voglio dire, un minore non può formalizzare un contratto che fosse di apertura di un social network come di acquisto di qualsiasi merce senza il consenso del genitore, e questo è un aspetto che purtroppo è sfuggito di mano. Ma fermo un attimo, figlia. Dobbiamo recuperarlo, un problema normativo chiarissimo. Fermo un attimo, se no non facciamo niente. Giuseppe Vaciago, ricordo, avvocato specializzato in diritto penale delle nuove tecnologie. Mi sembra che il tema caldo che sta a cuore genitore del Moige è proprio questo, uno strumento normativo che permetta loro di avere un controllo preventivo sull'iscrizione del figlio nel social network. Questo è applicabile allo stato delle cose? Ma no, non è applicabile, nel senso che io vorrei ricordare che dietro un diritto ci sono sempre dei doveri e quindi il problema grosso che noi abbiamo è che non è che i diritti possono essere non contemperati da delle attività che devono essere fatte da dei genitori. Cioè, mi spiego, noi possiamo fare dei proclami di principio, nel senso, facciamo l'esempio delle autostrade, dobbiamo avere il diritto che le persone non muoiano in autostrada, possiamo ragionare, però forse c'è anche il dovere di rispettare il limite di velocità. Cioè, non riesco a comprendere, però ti ricito Gianluca, qual è il problema per un genitore di iscriversi e quindi di adempiere ad un dovere all'interno di un social network e esercitare il suo diritto che già può esercitare. Vogliamo modificare una volta che però i genitori hanno fatto qualcosa, la facoltà dei genitori, vogliamo implementare il potere di controllo dei genitori? Bene, questo è un tema di discussione su cui io sono assolutamente d'accordo e si deve lavorare a livello normativo, però non possono esserci, mi si perdoni, dei programmi di principio di questo tipo, perché così è un rifiuto della tecnologia, è un rifiuto di un nuovo mondo, è un rifiuto dell'online, è applicare applicare delle regole che riguardano il mondo offline, cioè il mondo che c'è, a un nuovo mondo che deve essere concepito. Cioè, prima di tutto i genitori devono entrare sui social network, poi parliamo di diritti che i genitori possono avere all'interno di quel mondo. Questo mi sembra un ragionamento sensato. Mi stanno chiedendo, molti ascoltatori mi stanno chiedendo di pubblicare il decalogo di Rossetti. Oggi lo farò, lo metteremo pubblico in modo che possano leggerlo, ma sono cose che dovrebbero già sapere loro in partenza. Però Rossetti l'ha messe perfettamente in linea e ordinate in un decalogo che sarà utile che vi ricordiate. Ombretta. Sì, buongiorno, io sono d'accordissimo con l'avvocato, ho 50 anni, ho due figli adolescenti, quindi ovviamente su Facebook quando loro ritengono di poterci stare, loro lo ritengono dopo lo studio, dopo tutti i loro impegni, hanno quell'ora di potersi divagare e non rimanere fuori dal mondo. Quindi lei diciamo, per lei sono sufficienti gli strumenti che ci sono di controllo? Io ritengo che la famiglia deleghi o vuole sempre ed esclusivamente delegare a qualcun altro l'educazione, l'etica dei propri figli, perché nessuno dice quanto è faticoso dedicarsi ai figli e appunto avere uno stile di vita che permetta a questi ragazzi di crescere nel, diciamo, nella buona educazione. No, ma è chiaro, Ombretta, quello che dice è chiaro. Esiste, ecco, una dimensione in più da controllare oltre il mondo concreto. I genitori devono avere gli strumenti per vivere anche loro in quella dimensione, se no è inutile, i figli saranno sempre, come superata una frontiera, non avrà nessun filo di collegamento con la famiglia. Michele. Pronto, buongiorno. Sì. Io volevo dire che il lavoro più grosso pedagogico da fare oggi, secondo me, è rivolte ai genitori, non certo ai figli, perché sicuramente internet non si può combattere né con un decalogo né con mille regole, e la parte più difficile da educare oggi sono veramente i genitori. Io mi riferisco a tutti quelli che oggi hanno 50-55 anni e non hanno minimamente gli strumenti per poter intervenire in una tecnologia che è più in mano ai figli che ai propri genitori. Ma come uno studia una lingua o uno si fa un corso di aggiornamento professionale? Questo è vero, però ho notato ad esempio nei confronti di alcuni genitori di 50 anni, di mia madre eccetera, che ci sono proprio delle limitazioni logiche, che non è come studiare una lingua, capire che internet è un branco e non certo l'individuo, che il proprio figlio ha un mondo che sì, non ma si un può cinquantenne, visto che internet in Italia se ne parla ormai da, 20, da 18 anni più o meno, un cinquantenne dovrebbe averne masticato qualcosa se ha vissuto la sua epoca e ha vissuto. Ma le dinamiche, questo è verissimo, però le dinamiche che regolano i social network sono abbastanza recenti, si parla degli ultimi 3-4 anni ed è veramente una cosa molto molto molto difficile. Ma dove stanno i genitori in questi ultimi 4 anni? Mentre a lavorare, il mondo... forse. Ma a lavorare. Sì, ma guarda, adesso non andiamo in questa mistica del lavoro che si torna a casa e impedisce. Vanno alle partite, perdono un sacco di tempo. Ma infatti hanno sottovalutato. Quello che dicevo io è che è proprio l'intervento pedagogico è dare la vera dimensione del problema o comunque Ma scusi, io non vorrei adesso essere malizioso, ma i papà e le mamme ci stanno molto nei social network in Italia. Parlano i numeri, non c'è impiegata di pubblico ufficio, o non c'è ragioniere, geometra o serio professionista, avvocato, ragioniere che non abbia il suo profilo Facebook dove tranquillamente provoloneggia quando vuole con le sue coetanee. Quindi un'occhiata anche a quello che fanno i figli potrebbe farlo. Andrea Rossetti, proprio in conclusione, il tuo decalogo ha funzionato, c'è qualcosa che devi aggiungere visto che è uno strumento pratico e concreto? No, direi di no, però io do ragione all'ultimo ascoltatore. Effettivamente i miei coetanei, quelli che tra i 40 e i 50, che usano internet prevalentemente per lavorare, hanno davvero poca familiarità con i social network. A me me è una colpa loro, sì, è vero. Sì, però è un dato di fatto. È dato di fatto, non è una giustificazione. Ma è anche un dato di fatto. No, qui insomma il Moge fa una cosa interessante in realtà quando va a parlare di cultura della rete in giro, perché è questo quello che bisogna fare adesso, prima di ogni altra cosa, prima di interventi legislativi di carattere più o meno censorio. L'educazione, la cultura della rete prima di tutto. Gabriele. Buongiorno, dunque, non è vero che se io sono amico di mio figlio o di mia figlia posso controllare, posso non vedere tutto, parzialmente, certo, perché il vero problema in un social network sono le chat, che sono assolutamente controllabili solo dall'interno di un profilo, e i messaggi. Allora, se io posso accedere attraverso un parental control come esiste su Sky o su determinati siti. Ma controllare la chat è impossibile se lei non chatta, è chiaro? Questo è evidente, però la chat è lo strumento più pericoloso di interazione, perché io posso chattare con chiunque in qualunque momento. Insomma, non si può abolire per questo. No, bisognerebbe inserire un sistema elettronico, e lo deve mettere a disposizione Facebook, parental control, ovvero un minore non può chattare, un minore non può scambiare messaggi privati. A quel punto si tutela la privacy e il pericolo, perché altrimenti diventa incontrollabile. Vaciago, cosa ne dici di quest'ultima domanda? Un blocco alla chat, si chatta solo se vuole papà. Ma questi sono temi di discussioni aperti su cui mi si trova d'accordo, nel senso che dalla discussione ovviamente. Può essere un diritto al genitore, io voglio che mio figlio non chatti. Cioè, però perdonami Gianluca, voglio dire, non è che io sia d'accordo, perché secondo me c'è una cosa che si chiama privacy dei nativi digitali che va valutata, cioè abbiamo nuove culture della privacy e vanno rispettate anche le nuove generazioni. Detto questo, secondo me però è un tema aperto, io posso avere la mia opinione, il Moge può avere un'altra opinione, sì, allora è un tema logico. Al fare proclami di principio adesso è pericoloso. L'ultima cosa, è molto importante ricordarsi che quando noi cambiamo le regole, le cambiamo in Italia, noi qua parliamo di un servizio globale che lavora su 140 paesi nel mondo, anche questo ricordiamocelo quando facciamo questi proclami. Non è facile cambiare un sistema che dialoga con il mondo intero. Questo era un'ultima osservazione. Grazie Vaciago, grazie a quanti hanno partecipato. A domani.